Clarette Band. Svegliatevi, discutetevi, vedo il cielo come una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno, forse un sogno, il ricordo di una canzone che ora cresce come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Sono le loro tombe, non li posso raccattare. E ora sono qui, sono per sempre qui, con le braccia levate al sole. È difficile, io ci credo, trovo un fiore su piazzale Loreto. Non li hanno uccisi, sono i giovani di Accaralezia, i ragazzi in camicia nera, i fratelli di Prima Valle e i martiri dell'Emilia. E ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri alle foibe. Difficile, io ci credo, e piovo fiori su piazzale a Roveto. Prego il puto in faccia.